Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Olga e Frey. Finalmente siamo arrivati nel bel mezzo di questo aprile. La settimana scorsa, che chiaramente aprile è il nostro mese preferito, ma ce lo diciamo sempre, la settimana scorsa avevamo cominciato benissimo con Memorie di Libertà, il documentario sui partigiani parmensi, e c'erano venuti a trovare i registi Carlo Golotti, Michela Benvenu e Stefano Tedesco. Puntata che potete ritrovare, come sempre, su www.radiovalun.info. Continuiamo questo bellissimo mese riprendendo un tema che avevamo già scandagliato un po' l'anno scorso. Vi rinfresco la memoria, l'anno scorso abbiamo parlato abbiamo fatto una puntata sugli immigrati, sui partigiani stranieri che avevano combattuto in Emilia-Romagna. Avevamo scoperto che c'erano molti sovietici. Centinaia di sovietici hanno combattuto sulle montagne in pianura dell'Emilia-Romagna, c'erano vari partigiani dell'ex Jugoslavia, c'era un olandese che ci aveva lasciato le memorie di questi 20 mesi in montagna, e oggi riprendiamo più o meno questo tema, però al contrario. Parliamo di antifascisti italiani che si trovano nella Francia occupata e nella Francia di Vichy, e sono dei GAP. Parliamo dei Franc-Tireur Partisan, quella che conosciamo come FTP, e del MOI, quella la Main d'œuvre ouvrière, che è la costola, diciamo, straniera del Partito Comunista Francese. Sì, ecco, adesso entriamo proprio nel vivo di questo libro che andiamo a presentare, che si intitola Alle origini dei GAP, FTP MOI, gli immigrati comunisti nella resistenza francese, un bel cofanetto, perché di questo si tratta, edito da Red Star Press, casa editrice romana di cui vi abbiamo già avuto modo di parlare. Un libro curato dal Centro di Documentazione Wakatanka di Milano, che fra poco sarà nella persona di Francesco in collegamento telefonico con noi per parlarci proprio di questo libro. Allora, cos'è stata l'esperienza FTP e MOI? È un'esperienza particolare, militanti comunisti attivi nella resistenza francese sulla base di un'organizzazione politica precedente che il Partito Comunista Francese aveva iniziato a sviluppare già dagli anni 20. Chi sono questi Franc-Tireur Partisan Main d'œuvre immigré? Sono operai comunisti, per l'appunto, immigrati, esuli dall'Italia con ogni probabilità, perché erano antifascisti, e quindi esatto, c'è una componente importante di antifascismo in Francia, perché i primi immigrati, operai, contadini, ma anche intellettuali, cominciano ad andare in Francia, a Parigi, all'inizio degli anni 20. Infatti non a caso qui Carlo Rosselli e gli altri antifascisti fanno proprio il concentramento antifascista. Esatto, poi non sono solo italiani, naturalmente, sono di tante altre parti. Abbiamo molti immigrati dall'est, l'immigrazione dall'est in Francia è storica, e abbiamo molti transfughi comunisti che fuggivano dall'est Europa, per l'appunto dal fallimento dei tentativi rivoluzionari degli anni 20, e abbiamo tanti ebrei anche, e ebrei dell'est sicuramente, ebrei che erano stati privati della nazionalità dal regime di Vichy, quindi anche quegli ebrei naturalizzati francesi che avevano potuto accedere alla cittadinanza, per l'appunto, a seguito della loro permanenza in Francia. Nel 1940 vengono privati per legge della nazionalità francese, della naturalizzazione, per cui si buttano in questa esperienza di resistenza. Un'esperienza di resistenza che ha alle spalle, come vedremo, il transito della Spagna, quella che è stata un po' la scuola di formazione della resistenza europea. E sono storie, le loro, quelle che ci vengono raccontate all'interno del libro All'origine dei GAP, FTP MOI, gli immigrati comunisti nella resistenza francese, edito da Red Star Press e curato dal Centro di Documentazione Wakatanka di Milano, sono storie, dicevo, che raccontano un'Europa diversa da quella che normalmente viene immaginata in questo periodo di riscoperta dell'identità nazionale. In realtà sappiamo che quello che è il cuore pulsante di questa Europa, l'esperienza della resistenza e della lotta antinazista, antifascista, in realtà è un cuore che parla più lingue e che si attraversa, che attraversa molto i confini, è molto mobile. Ora ci iniziamo ad ascoltare un breve pezzo che ci accompagna in questo viaggio. Ci ascoltiamo un disco molto particolare di questo gruppo francese, La Vie d'Artiste, un gruppo, una crew hip hop, che ha fatto questo bel disco, Ferré Serap. Vous n'avez réclamé ni la gloire, ni les larmes, ni l'or, ni la prière aux agonisants. On sent déjà que cela passe, vite 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, par ceux qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient le cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Nul ne semblait vous voir, français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants avaient écrit sous vos photos mort pour la France. Et les morts de matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans haine en moi pour le peuple ils allemand. Ils étaient 23 quand les fusils, 23 qui donnaient le cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini plus tard en errant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient le cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Il pezzo che abbiamo sentito si intitolava La Fiche Rouge, una canzone di Léo Ferrer interpretata dalla Vie d'Artiste, che però era una musicazione, una versione sonora di una poesia bellissima di Luis Aragon dedicata alla Fiche Rouge, una vicenda di cui vi daremo qualche notizia all'interno della pagina che accompagnerà la puntata a partire da lunedì, una vicenda che riguarda proprio questa FTP MOI. E adesso entriamo nel libro che vi presentiamo quest'oggi. È un libro molto importante, come dicevamo, è un cofanetto composto di tre libri all'interno. Abbiamo un primo volume di introduzione a una storia rimossa, FTP MOI, il ruolo dei comunisti nella resistenza europea, cura del centro di documentazione Vacatanca, e poi due traduzioni di libri usciti in Francia. Il primo di Boris Holban, Ai miei compagni, la vera storia della manodopera immigrata nella resistenza francese, raccontata dal capo militare degli FTP MOI di Parigi. E poi un libro di storia, Il sangue dello straniero, storia degli FTP MOI, la manodopera immigrata dei partigiani francesi, un libro che venne scritto nell'88 da Stéphane Courtois, Denis Beschanchi, Adam Raisky, tre storici francesi, uno piuttosto discusso, Stéphane Courtois, perché qualche anno dopo avrebbe preso una bella sbandata curando il libro nero del comunismo, ma all'epoca, giovane trotskista, curava questa rassegna. Il centro di documentazione Wakatanka ha fatto un bel lavoro di collezione mettendo insieme questi testi. Adesso però abbiamo con noi Francesco del centro di documentazione Wakatanka che ci presenta questo cofanetto. Ciao Francesco, ben trovato e benvenuto su Vallun. Ciao a tutti voi. Bene, allora iniziamo ad entrare in questo volume che è piuttosto complesso e che racconta una storia complessa come quella dell'esperienza FTP-MOI. Il titolo del libro di cui stiamo parlando è All'origine dei GAP, FTP-MOI, gli immigrati comunisti nella resistenza francese. Allora, ecco, io ti chiederei proprio di entrare in questo libro parlandoci di questi partigiani un po' particolari, o meglio, partigiani come tutti gli altri, di cui si parla un po' meno, perlomeno in Italia si è sempre parlato un po' poco, che però hanno svolto la loro attività antinazista, antifascista, hanno partecipato alla guerra di liberazione come i partigiani francesi nel caso della Francia, e che però sono stati dipinti all'epoca in maniera un po' particolare. Pensiamo al celebre caso della Fiche Rouge e del gruppo Manouchian, che veniva dipinto proprio come un criminale pericoloso, proprio per il fatto che fossero stranieri, molti di loro fossero ebrei. Chi sono questi franc-tireur partisan e main d'oeuvre immigré che hanno partecipato alla resistenza francese e che ruolo hanno svolto all'interno della resistenza e della resistenza comunista in particolare? Guarda, per capire come si è arrivati agli FTP MOI, anche i tiratori partigiani, manodopera emigrata, bisogna fare un passo indietro, nel senso che questa esperienza di cui noi nei libri si tratta parte in realtà alla metà degli anni 20, cioè quando il Partito Comunista Francese impulso dell'Internazionale Comunista decide di sviluppare un lavoro politico sugli immigrati. In quegli anni in Francia arrivavano veramente una quantità enorme di immigrati e il Partito Comunista Francese decide di sviluppare un lavoro politico su questo per contrastare le campagne xenofobe della destra francese del tempo e per cercare di unificare le esperienze degli immigrati con la classe operaia francese. Considera che alla fine degli anni 30 praticamente il 25% della classe operaia francese è emigrata, quindi questo dà un po' il dato di quanto fosse importante questa componente. Quindi da qui parte il lavoro politico del Partito Comunista Francese sugli immigrati con l'obiettivo di integrarli nella classe operaia francese, quindi gli immigrati insieme alla classe operaia francese lottavano per i diritti, per tutte le conquiste, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po', se vuoi, la premessa. Questo lavoro si sviluppa nel corso degli anni e vengono create sono chiamate poi le MOI, manodopera immigrata, che erano delle organizzazioni politiche di immigrati divise per nazionalità o per lingua. Perché? Perché ovviamente arrivava gente dall'Italia, dalla Spagna, dall'est Europa, da tutta l'Europa. Questa situazione inizialmente creò anche dei problemi in parte con l'Italia francese, perché ogni realtà MOI di immigrati tendeva a relazionarsi col Partito Comunista del proprio paese. Però questa cosa qui venne superata creando queste organizzazioni, dando piena autonomia a queste organizzazioni, però legate al Partito Comunista Francese, che rispondevano al Partito Comunista Francese, per cui queste organizzazioni sviluppavano propaganda in lingua italiana nel caso della MOI italiana, in lingua spagnola nel caso della MOI spagnola e così via. Questo è un po', se vuoi, la situazione di partenza, quindi questo grosso lavoro politico che il Partito Comunista sviluppa sugli immigrati per integrarli nella classe operaia francese. Poi l'elemento di sviluppo alla MOI, perché si arriva poi alle FTP MOI, perché ci sono dei passaggi. Il più importante è la guerra di Spagna, dove ovviamente molti presenza spagnola in Francia moltissimo, molto elevata, molti chiedono di rientrare in Spagna, sia gli spagnoli sia poi nelle brigate internazionali. Essendo in quel momento la Francia neutrale rispetto al conflitto spagnolo, il Partito Comunista delega alla MON, quindi a queste organizzazioni di immigrati, la gestione delle brigate internazionali, per farla breve in sostanza. Quindi sono gli immigrati che per primi si misurano anche su un terreno che non è solo politico ma che è anche militare. Questo perché la storia del Partito Comunista francese, che poi è un po' simile a quella che è la storia del Partito Comunista italiano, non è mai stata una storia di partito di combattimento, è sempre una storia di partito di propaganda. E quindi diciamo non c'era un'impostazione né culturale né ideologica né politica a gestire situazioni di conflitto forte, ecco. Quindi quando in sostanza si arriva all'invasione nazista della Francia, nel nord i nazisti, nel sud la cosiddetta Repubblica di la Francia libera della Repubblica di Vichy, di fatto il Partito Comunista usa questa esperienza che la MOI, che gli immigrati organizzati avevano maturato su un terreno che era prevalentemente politico, ma che era anche diventato nel tempo, se vuoi, militare, usa questa esperienza per dare vita a quella che poi è stata la resistenza armata. Cioè, il passaggio fondamentale da cogliere rispetto a questa storia è che l'FTP MOSI di fatto opera dal maggio del 42 fino al novembre del 43, quando poi viene distrutta. In questo arco di tempo è l'unica organizzazione che si oppone realmente a nazisti e ai fascisti, e avviene una sorta di delega da parte del Partito Comunista francese. Perché? Perché la riconosce in questa organizzazione di immigrati una capacità politica militare che il partito non aveva. In sostanza, adesso molto schematico, ovviamente molto schematicamente, tra questi sono i passaggi, per questo diventa importante l'FTP MOL, perché nel momento, dopo l'invasione dell'Unione Sovietica, l'internazionale comunista lancia l'appello di attaccare i fascisti, i nazisti con ogni mezzo e in ogni luogo. Il Partito Comunista francese di fatto è impreparato politicamente, ideologicamente e organizzativamente a dare seguito a questa direttiva. Quindi c'è una sorta di delega, anche se non scritta, però di fatto viene data una delega a questa componente immigrata, che era la più avanzata. Ecco, Francesco, io volevo entrare nel merito dei tre volumi del cofanetto. Allora, il cofanetto, come abbiamo già detto, si chiama Le origini dei GAP. Ci puoi spiegare questo titolo e se c'è una... come si lega, ecco, se si lega l'esperienza della FTP alla resistenza italiana? Guarda, si lega... Allora, il titolo, ti dico, è stata la cosa più semplice, nel senso quasi naturale. Perché? Per varie ragioni. Prima di tutto perché i GAP italiani di fatto riproducono il modello organizzativo degli FTP MOL, ma non solo, come dire, dal punto di vista organizzativo, proprio anche la concezione. Gli FTP MOL in Francia vengono creati per rompere quella che potremmo definire la pace nazista che c'era al tempo, e lo stesso ruolo è poi quello dei GAP. Ma non solo per questo, ma anche perché c'è una continuità anche di uomini. La componente italiana che fa parte degli FTP MOL è la componente italiana, è la componente che poi darà vita, diciamo, ai GAP in particolare, ma che avrà un ruolo anche importantissimo nella resistenza italiana, quando c'è, dopo l'8 settembre, quando si inizia veramente la resistenza. Cioè, quindi il titolo è dato da questa continuità, che è una continuità, diciamo, di tipo organizzativo, di concettuale, potremmo dire, e anche proprio di uomini in molti casi. Ci sono vari dirigenti nei GAP portano nei GAP l'esperienza maturata nella moglie. Francesco, guarda, ti faccio un'ultima domanda, proprio perché mi ha colpito questo aspetto. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è poco, però volevo cercare di capire. Cioè, hai descritto questi movimenti transfrontalieri, immigrati italiani sì. che combattono la resistenza francese e tornano. In due battute, qual era l'origine di questi combattenti? Cioè, di cui varrebbe la pena di parlare anche, mi verrebbe da dire, con un parallelismo un po' facile in quest'epoca di rispolvero delle identità nazionali, invece sapere che la resistenza, la liberazione è stata combattuta da persone che non erano nate in quel posto, ma non per questo non ritenevano meno importante liberare il posto in cui abitavano, è molto significativa. Certo, guarda, allora considera che nel caso della poi la presenza italiana, che era una delle maggiori, dove ovviamente la componente più politicizzata era quella che fuggiva dal fascismo italiano. Poi la componente ebraica, anche questa veramente importantissima, che ha avuto un peso grandissimo, perché tutto l'est europeo c'era comunque antisemitismo e anticomunismo in quantità. Quindi la provenienza prevalentemente la nelle persecuzioni anticomuniste contro gli ebrei. Questa è la componente. Si trovano in Francia e ovviamente lottano in Francia, perché partono dal presupposto del nazionalismo, eccetera, dove comunque colpire i nazisti in Francia voleva dire colpire i nazisti a livello europeo. Tu paieras ta télévision avec tes gauloises manquées. Tu paieras ton lapin vison à la sociale sécurité. T'enverras des fleurs à ta mère avec le reste de tes soucis. Tu mettras de l'eau dans ton verre, le vin ça fout la maladie. Mais faut jamais, non, faut jamais, même en rêve. Faut jamais faire la grève. Mais faut jamais, non, jamais, même en rêve. Faut jamais faire la grève. Tu passeras à la fin du mois prier Notre-Dame des petits fours. Si par hasard tu n'as plus de croix, on te filera une croix de secours. La prière ça monte tout droit comme la fumée des hauts fourneaux. À moins qu'il y ait le vent qui passe par là, alors t'as prié pour la peau. Mais faut jamais, non, faut jamais, même en rêve. Faut jamais faire la grève. T'auras du foin chez ton tabac, t'auras de l'avoine pour tes deux chevaux. En disant comme les Auvergnats, c'est celle que j'aime pour mon bestiaux. Prendra ta femme dans tes bras, du moins ce qu'en ont laissé les gosses. Que tu lui fais tous les 10 mois, faut bien 30 jours pour faire la noce. Mais faut jamais, jamais, même en rêve, non. Faut jamais, non, jamais faire la grève. Mais faut jamais, non, jamais, même en rêve. Faut jamais, non, jamais faire la grève. Quand t'auras le temps, t'iras voter en montrant tes papiers de souverain pour envoyer ton député faire les conneries que tu ferais bien. Si par hasard on te fait savoir que le pain, le boulot, la liberté se sont fait faire sur le trottoir comme une gonzesse, t'auras gagné. Alors des fois même en rêve, ouais, tu pourras peut-être, ouais, peut-être faire la grève. Alors des fois, ouais, des fois même en rêve, tu pourras peut-être, ouais, peut-être faire la grève. Grazie ancora a Francesco del Centro di Documentazione Wakatanka. Noi torniamo in studio e volevamo darvi qualche appuntamento per questo aprile. Il 18 aprile alle 5:30 presso l'Istituto Parri c'è un evento reading, presentazione, musica per ricordare il partigiano morto un anno fa, che è Francesco Berti. Quindi un pomeriggio intenso. Mentre andiamo in onda c'è la festa, il festival, la festa di SMK, che è la casa di produzione che compie 10 anni. Siamo al VAG e c'è un ricco programma fino a domani sera. Il 24 aprile una nostra vecchia conoscenza, che è Daniele Biacchessi, presenta il suo libro L'Italia liberata, storia di partigiani, per Yakabook, e lo presenta alle 18 al Centro Sociale della Pace, al Pratello. Vi vogliamo ricordare una cosa, cioè che il 21, che è la liberazione di Bologna, noi non andiamo in onda, ma la grande novità è che il 25 aprile, durante il Pratello Resiste, quindi al Pratello, faremo una mezz'ora in diretta. Quindi la redazione in diretta, siamo alla fine del Pratello, quindi in via San Rocco, e dovremmo essere in onda verso le 2, 2:30. Sempre il nostro solito orario. Esatto, quindi se ci passate a trovare, ci fate un saluto, magari ci portate una birra, e noi siamo lì una mezz'oretta a parlare di storia, come sempre, di antifascismo, di resistenza, di partigiani e di partigiane. Siamo molto contenti perché sarà la prima volta che andiamo in diretta. Bene, con questo auspicio, questo appuntamento al 25 aprile, noi vi salutiamo. Buon proseguimento di giornata a tutte e tutti. Da Frey e Olga. Ciao!